Il gastronauta di Davide Paolini. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ebbene, oggi parleremo agli appassionati, soprattutto agli appassionati di vino, ma credo anche, diciamo, il consumatore, quello tradizionale normale che acquista una bottiglia di vino, magari una tantum, può essere interessato da quanto andremo così a discutere. Perché è, diciamo, in prossimità una grande rivoluzione che riguarderà le denominazioni del vino, quindi anche la lettura delle etichette del vino e soprattutto i controlli sul vino, ma soprattutto noi andremo a parlare appunto di questo grande cambiamento voluto in sede comunitaria, voluto dalla nuova OCM. Ebbene, non solo parleremo di questo, ma in una seconda parte andremo anche a una guerra molto, molto italiana. Ne abbiamo già parlato qualche mese fa del Prosecco in lattina, abbiamo parlato anche così di altri problemi che riguardavano il Prosecco fuori, diciamo, dai colli tradizionali. Esiste tra l'altro in Italia, in Friuli Venezia Giulia, un comune che si chiama, guarda caso, Prosecco. Andremo a vedere anche questo. Però cominciamo appunto a capire che cosa succederà nel mondo del vino, perché fra un anno e mezzo non avremo più le DOC, le DOCG o le IGT, ma avremo le DOP e le IGP, cioè a dire le stesse denominazioni per i prodotti gastronomici. Questo è così un volere di Bruxelles che sicuramente creerà enormi confusioni sul mercato. Già oggi le DOP e le IGP non sono comunicate, cioè la comunità non ha comunicato a livello europeo e mondiale che cosa esattamente sono, e quindi dovrà essere uno sforzo addirittura maggiore nel dover appunto comunicare sia il vino sia i prodotti gastronomici con le stesse denominazioni. Ma soprattutto ci sono anche nuovi controlli in arrivo, e in questo momento i produttori di vino sono, per così dire, in agitazione. Allora io vorrei cominciare a parlarne con Andrea Sartori, presidente dell'Unione Italiana Vini, nonché produttore, ovviamente produttore veneto. Però voglio anche ricordare che fra poco in trasmissione dovrebbe intervenire il ministro Luca Zaia, e sentiremo anche dalla viva voce del ministro appunto cosa sta succedendo. Buongiorno Sartori. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, che succede? Siete tutti in agitazioni, in preoccupazioni per queste, diciamo, riforme che si stanno arrivando, per questi nuovi controlli ai vini, ad esempio ai vini IGP, cioè i vecchi vini IGT che diventeranno IGP. Perché? Ma guardi, intanto io la vivo personalmente forse come un'opportunità anche per fare un po' di ordine su questo sistema dei controlli, che è molto importante per tutti noi, è un elemento di competitività e di chiarezza. Si deve spostare ovviamente il tiro, perché la comunità ci chiede di cambiare qualcosa, e la parte più interessante forse è che i controlli dovranno essere fatti da istituti di controllo terzi, quindi diciamo non più dai consorzi come vengono eseguiti adesso, ma da organi di controllo terzi che appunto tutelano già oggi i prodotti DOP e IGP come l'aceto balsamico, piuttosto che altre cose similari. Ecco, intanto ricordo numero verde 800 24 00 24, chi vuole intervenire su questo tema, messaggi SMS 349 238 6666. Senta Sartori, ma questo cambiamento di controlli, diciamo da passare dagli autocontrolli o dai controlli dei consorzi ad altre organizzazioni, significa un momento molto più, come posso dire, stretto, molto più rigoroso rispetto al passato? Ma diciamo, io me lo auguro da un certo punto di vista, perché diciamo che un occhio terzo a quello che possono essere i controlli volontari è sicuramente più incisivo e più interessante. Però ripeto, è necessario anche fare un po' di chiarezza e magari spoltire un po' quello che è il sistema di controlli, dove ci sono molti doppioni, insomma si passa da diversi soggetti, camere di commercio, regioni, province, appunto i consorzi e via dicendo. Quindi veramente credo, e sono sicuro che il ministro prenderà questa opportunità per fare un buon lavoro, che si possa arrivare a un controllo molto efficiente, molto puntuale, ma anche tutto sommato semplificato. Quindi speriamo che con questi controlli sicuramente gli scandali siano minori, siano presi in tempo, e speriamo anche appunto le sofisticazioni, le adulterazioni. Speriamo che in questo senso diciamo che il consumatore sarà molto più garantito. Io penso di sì e me lo auguro vivamente, perché insomma ne va dell'immagine di tutto il comparto vitivinicolo italiano. Io sono molto allineato con la strategia del ministro, che è la tolleranza zero, perché veramente anche dei piccoli scandali che sono successi in passato hanno avuto però un riverbero soprattutto nei mercati dell'estero, e questo non ci fa assolutamente bene. Bene, lei non pensa che diciamo mettere tutto sotto appunto questa casa delle DOP e dell'IGP non possa creare confusione, disorientamento nel consumatore? Ma inizialmente ci sarà sicuramente un'indicazione diversa sull'etichetta, però teniamo presente che le denominazioni in se stesse non cambieranno, quindi un Chianti si chiamerà ancora Chianti, un Valpolicella si chiamerà ancora Valpolicella, solo che invece di vedere la scritta denominazione di origine controllata si vedrà la scritta denominazione di origine protetta. Sicuramente ci vorrà un periodo di tempo per così aggiustare l'occhio a questa nuova indicazione, però teniamo presente che il nome principale del prodotto non cambierà, quindi insomma in questo senso sono abbastanza tranquillo. Sì, mi lascio un po' perplesso però questo discorso che per far domanda ad esempio per una DOP o un IGP basterà anche solo un singolo produttore, cioè mi sembra che la parcellizzazione veramente avvenga in maniera enorme in questo caso, cioè uno si alza la mattina e così crea una nuova DOP o un IGP. Ma diciamo che sulla carta è così, ma sul lato pratico sarà molto più burocratico e difficile, perché poi da agosto non saranno più recepite a livello italiano, ma tutte le denominazioni vengono recepite a livello europeo. Quindi anche diciamo chi si alza la mattina per creare una nuova denominazione, una nuova IGP, dovrà fare un iter burocratico particolarmente complesso e appunto in sede comunitaria, dove la burocrazia non scherza, quindi insomma non sarà proprio così facile. Bene, io la ringrazio appunto Andrea Sartori, presidente dell'Unione Italiana Vini, e quindi devo dire che ora siamo in attesa, appunto interverrà anche il ministro, sentiremo anche il ministro Zaia su questo argomento. Io ricordo il numero verde 800 24 0024, chi volesse porre appunto dei quesiti su queste nuove denominazioni e poi anche sul discorso che affronteremo sul Prosecco, i messaggi SMS 349-238-6666. Il gastronauta. Eccoci di nuovo appunto a parlare di vino, a parlare di una serie di problemi che toccano il vino, nuove denominazioni, nuovi controlli e appunto, come ho detto, la guerra del Prosecco. Sentiamo un radioascoltatore, Eugenio da Verona. Buongiorno Eugenio. Buongiorno a lei, signor Davide. Mi dica. Niente, io ero d'accordo con lei quando diceva della questione che vogliono dare l'IGP o l'IG, quel che diavolo sia, insomma, quello nuovo, a chiunque lo chieda, anche un produttore unico. Mi lascia peraltro perplesso che ogni volta che saltano fuori queste questioni di possibili controlli da parte di terzi, ci siano sempre un po' delle levate di scudi, prese di posizione da parte dei produttori di vini. Lascia sempre questa cosa perplesso il consumatore, dicendo: ma allora questi controlli che ci sono fino adesso, i vari DOC eccetera eccetera, sono cose serie o non è così? Bene, la sua è così, è una, diciamo, un interrogativo molto importante, vedremo di poter rispondere durante il corso della puntata. Grazie Eugenio, grazie, molto interessante. Davide da Mantova, che credo sia un esperto tra l'altro. Buongiorno Davide. Buongiorno, lei è Davide, mio omonimo. Sì, certo. Mi dica Davide, so che lei è un esperto, tra l'altro, credo, vero? Sì, mi interesso di etichettature, denominazioni d'origine per alcune pubblicazioni che ho curato per conto di certe case editrici, e a proposito del discorso dei vini, volevo porre all'ordine del giorno la questione riguardante la possibilità, di cui ho sentito parlare, dell'uso della menzione comunitario per designare i vini che un tempo si sarebbero chiamati vini da tavola, che a questo punto sono nei normalissimi vini senza denominazione geografica, possibilità che ha scatenato un vespaio di polemiche, perché appunto comporterebbe il fatto di attribuire una seppur minima connotazione territoriale dei vini che fino ad oggi non potevano riportare assolutamente nessun tipo di menzione, a meno che non fossero riconosciuti IGT. So che è una possibilità di cui si parlava e volevo sapere come stanno le cose tutt'oggi. Grazie. Senta, lei quindi dice vini così che prima non potevano avere denominazioni potranno nel nuovo regolamento dell'OCM portare la denominazione comunitari, vini comunitari, quindi questa sì, dice... Sembra che sia in discussione un progetto di regolamento in virtù del quale i vini che non possono avere appunto nessun tipo di riferimento territoriale e quindi non arriveranno neanche al livello dei nuovi IGP e quelli che una volta erano IGT, questi vini senza riferimento territoriale comunque sembra che possano, potrebbero, o meglio in teoria, potrebbero avvalersi della possibilità di usare questo tipo di menzione, cioè vino comunitario, e la cosa sembrerebbe non molto... gradita a diverse associazioni, a diversi produttori. Bene, grazie, sentiremo anche questo durante il corso della trasmissione. Ricordo il numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Bene, ora introduciamo anche l'altro argomento, ovviamente diciamo tutte e due sono validi per poter intervenire, il discorso della guerra del Prosecco. Cos'è questa guerra del Prosecco? La guerra del Prosecco è che il Piemonte potrebbe rimanere escluso dalla denominazione appunto di Prosecco, nonostante ci sia una percentuale enorme di imbottigliatori piemontesi appunto che diffondono e vendono questo vino nel mondo. Bene, uno di coloro che ha sollevato questo problema è un consigliere regionale di Forza Italia in Piemonte, Alberto Cirio, che io conosco molto bene come presidente, credo sia ancora presidente del mercato del tartufo di Alba. Buongiorno Alberto. Ciao Davide, buongiorno ai vostri ascoltatori, e sono ancora presidente della Fiera del Tartufo. Bene, che bene. È quella che mi fa più piacere dei miei incarichi. Ecco, ecco. Cosa succede sul Prosecco? Come mai voi piemontesi appunto state protestando? Guarda, noi abbiamo presentato un ordine del giorno in Consiglio regionale che è stato approvato all'unanimità, quindi in modo molto trasversale, martedì scorso. Parteciperemo alle audizioni che si terranno in Veneto nella prima quindicina di marzo. Perché tu hai già annunciato molto bene la situazione. Se il Prosecco, cioè se passa questa richiesta che arriva dalla Regione Veneto e dalla Regione Friuli di far diventare il Prosecco DOC, nel disciplinare del Prosecco DOC c'è scritto che questo vino potrà essere elaborato soltanto nella zona di produzione. Questo vuol dire, in termini molto semplici e poveri, che l'imbottigliamento del Prosecco, che oggi avviene per il 25% della produzione complessiva di Prosecco nel mondo in Piemonte, non potrà più avvenire. Oggi oltre 20 milioni di bottiglie di Prosecco vengono imbottigliate da aziende piemontesi che non solo lo fanno oggi, ma soprattutto lo fanno da 20 anni. E noi diciamo che queste aziende piemontesi hanno contribuito in modo fattivo alla affermazione del marchio Prosecco nel mondo. E noi crediamo pertanto che oggi togliere loro questo diritto, che è anche un diritto acquisito sotto un profilo più civilistico se vogliamo, ma è soprattutto un diritto del Piemonte, di questa terra che ha aiutato il Prosecco a fermarsi nel mondo, sarebbe un grave danno, sarebbe un'ingiustizia profonda, ma soprattutto sarebbe un danno economico rilevante per un settore che invece funziona e sta producendo ricchezza. Noi, ti aggiungo, capiamo e condividiamo la volontà della Regione Veneto e Friuli di valorizzare e tutelare il proprio prodotto, perché noi ad Alba ne abbiamo da sempre fatto una bandiera di questa battaglia, ma chiediamo, e sarà la nostra posizione ufficiale, che i diritti acquisiti di chi ha contribuito negli anni a far crescere il nome Prosecco anche commercialmente nel mondo vengano salvaguardati. Parole povere, chi lo fa da almeno 10 anni, per dire, può continuare a farlo. Grazie Alberto, rimani con noi, sentiamo Pier Domenico d'Alessandria. Buongiorno Pier Domenico. Buongiorno, ciao Davide, tanto piacere di risentirci. Io volevo solo intervenire per ricordare che la scelta di un soggetto terzo nel rapporto tra produzione e mercato è una scelta che era al centro dell'azione di Enoteca d'Italia, proprio perché Enoteca d'Italia non c'erano pressioni e possibilità di pressione da parte delle lobby esterne, che invece registriamo ogni qualvolta c'è in questa famosa, tra virgolette, filiera di cui si sente parlare, l'assenza del mercato e la prevalenza solo dei soggetti della produzione e non sempre di quelli che hanno la vigna, e che quindi comporta sul mercato oltremodo a volte delle alterazioni rispetto alla qualità di un prodotto che deve competere non solo come nell'ultimo intervento che ho ascoltato, a dove si produce, ma mantenendo della sua originalità quel principio di autoctono che poi sovente ci piace tirar fuori quando siamo in difficoltà di argomenti. Bene, grazie Pier Domenico. Ora sentiamo, abbiamo con noi Franco Adami, che è presidente del Consorzio del Prosecco. Buongiorno Adami. Buongiorno Davide, buongiorno agli ascoltatori. Ha sentito l'intervento di Alberto Cirio? Certo che l'ho sentito, l'ho anche letto qualche giorno fa, ed è una cosa un po' particolare, diciamo. Quella che stiamo facendo in Veneto è partita da Conegliano e Valdobbiadene, si è dilatata nella provincia di Treviso, che produce il 95% del prosecco che esiste oggi al mondo, ed è un'operazione che posso chiamare la rivoluzione del prosecco. In effetti, in funzione delle nuove normative dell'OCM, che prevedono addirittura che i nomi di vitigni non siano accompagnati da zone di produzione, ci ha messo in allarme, e il successo del prosecco nel mondo è tale per cui ci sentiamo di doverlo proteggere. Dobbiamo proteggerlo dalle speculazioni, leggi la lattina di cui ha accennato all'inizio di anni fa, e dobbiamo proteggerlo anche dal fatto che non si dilati ulteriormente, per cui lo facciamo diventare area. È diventato marca, è diventato modo di bere, è diventato prodotto a sé. Tutta questa operazione è gigantesca. Questa operazione prevede quindi che si formi un'area DOC, legge anche DOP, protetta quindi nella denominazione che si chiami Prosecco. Conegliano Valdobbiadene farà il suo percorso diventando DOCG, dando ulteriori garanzie di provenienza per il consumatore. Riguardo ai piemontesi, non posso che eccepire il fatto che se c'è qualcuno che ha acquisito dei diritti nel tempo vanno salvaguardati. Il lavoro che dobbiamo fare assieme è dare sicurezza, dare garanzia al consumatore, intensificare i controlli soprattutto per quelle denominazioni che sono soggette a speculazioni. È facile oggi prendere un vino qualsiasi, etichettarlo come prosecco e fare del business incredibilmente grande. La nostra prima preoccupazione è quella. Non è una guerra quella del prosecco. Certamente i diritti acquisiti devono essere dimostrati e verranno sicuramente salvaguardati. Non è questa la nostra preoccupazione principale. Certo è che dire che altre regioni rispetto al Veneto abbiano contribuito al successo del prosecco è un po' eccessivo. La data è recentissima. Gli anni in cui era difficile promuovere il prosecco lo si faceva solo dalle colline di Conegliano Valdobbiadene, di conseguenza nel trevigiano, e ripeto, se oggi il 95% si produce ancora a Treviso, significa che qui ha trovato radici e certo, da qui si è diffuso in tutto il mondo. Bene, grazie. Sentiamo un radioascoltatore, Giovanni da Napoli. Buongiorno Giovanni. Buongiorno a lei. Io per motivi professionali mi sto occupando di un progetto insieme all'Università di Salerno a Fisciano, con la professoressa Giovanna Ferrari, per quanto riguarda la tracciabilità dei prodotti viticoli. Il nostro problema non è tanto andare a colpire colui che fa un'azione fraudolenta, ma dare la possibilità al vero utilizzatore, cioè a colui che consuma il vino, di dare un'etichetta chiara, anche con l'RFID, con le radiofrequenze, dove dà alla tracciabilità del vino, cioè dove è stato coltivato, i nitrati, il tipo, l'azienda. E questo è l'unico, secondo me, sistema che può dare una certezza e tutela a tutta quell'area, per esempio del Trevigiano. E la cosa importante non è tanto finalizzata a fare una repressione, ma andare a formare il consumatore, che è praticamente il dio in questione, perché è colui che determina la vincita di un prodotto in confronto a un pessimo prodotto che viene fatto casomai in Francia o in altre aree che cercano di imitarlo, o nell'area dell'est. Perciò utilizzare i ricercatori dell'università che si stanno occupando di questo in modo particolare. Noi siamo a Napoli, però non è un problema di fare propaganda all'azienda, certo, che in questo momento è una questione proprio nel rispetto della sua professionalità, che fa un'ottima trasmissione e dà la possibilità alle vere anime che esistono in Italia, che non è detto che un campano o un calabrese non ha competenze nel trevigiano, voglio dire. Perciò secondo me andare a, e anche la capacità del ministro di avere tolleranza zero, come diceva il precedente radioascoltatore, è importante, perché è l'unico modo, ripeto, l'unico modo, dando la possibilità con un banale lettore che oggi costa poco, anche vicino alla tastiera o a un registratore di cassa, dove effettivamente abbiamo il percorso del vino. Il gastronauta. Nuove denominazioni per il vino, la guerra del Prosecco che abbiamo visto poi dai toni di Adami, che non è così una guerra, anche da quelli sicuramente di Cirio. Ma sentiamo Riccardo dalla provincia di Cuneo, radioascoltatore. Buongiorno Riccardo. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Da Veneto tra Piacenza in Piemonte la cosa mi colpisce del Prosecco. Presumo che ci siano dei capitolati per poter accedere a queste DOP, quindi presumibilmente se il Prosecco prodotto in Piemonte corrisponde a quelli, non dovrebbero, secondo me non dovrebbero esserci grossi problemi. Però di contro penso anche a questo, se in Veneto si mettessero a produrre il moscato come già fanno e lo chiamassero moscato d'alba o d'asti, sarebbe un po' diverso, cioè certo. Sarebbe la stessa questione. Abbiamo capito cosa vuol dire lei, giustamente vuol dire, dice, vabbè, se in Veneto si mettessero a toccare delle glorie piemontesi chissà cosa succederebbe. Bene, poi dopo richiameremo Adami in onda. Gilbert da Padova, un altro radioascoltatore, sentiamo. Buongiorno dottor Paolini, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Io sono abbastanza amareggiato in quanto sono esclusivista di queste famose lattine di Prosecco. Senta Gilbert, la cosa è molto interessante, però noi non sentiamo bene la sua telefonata, la facciamo richiamare e vediamo, perché mi sembra che l'argomento sia di molto interesse, visto che lei distribuisce lattine di Prosecco. Grazie Adami, intanto se vuol rispondere alla prima domanda del suo conterraneo che vive in Piemonte. Sì, beh guardi, devo precisare una cosa. Primo, il Prosecco si produrrà come uva e come vino esclusivamente nelle zone oggi autorizzate. Per quanto riguarda il Piemonte si tratta solo di imbottigliamento. Certo. Quindi il vino proviene dalle zone autorizzate, 95%, lo ripeto, si produce in provincia di Treviso, i piemontesi lo acquistano e lo imbottigliano. E l'altro 5%? L'altro 5% è distribuito in altre 6 o 7 province, 4 venete e 4 friulane. Cioè questo è per dire che il peso, il baricentro dell'argomento Prosecco deve rimanere a Treviso. È Treviso che ha investito secoli, ha investito migliaia di persone, ha investito valori per diffondere e far conoscere questo tipo di vitigno. Conegliano Valdobbiadene è la storia. È qui che è nato il Prosecco e si è piano piano diffuso, e Conegliano e Valdobbiadene è anche stata una delle prime denominazioni a garantire il consumatore attraverso un piano di autocontrollo, che se poi mi consente vorrei dire due cose anche su questo. Ora, il fatto che i piemontesi imbottiglino il Prosecco da parecchi anni è cosa nota, non c'è problema da questo punto di vista, non voglio però che si approfitti di una situazione oggi molto vantaggiosa, che è quella di imbottigliare Prosecco per vantare diritti che magari non ci sono. Bene. Ecco, questa è una cosa che dovremmo discutere fra veneti e piemontesi. Bene, Adam, io lo interrompo un secondo perché abbiamo con noi a pochi minuti il ministro Luca Zaia, visto che è un trevigiano doc e credo che al Prosecco ci tenga anche lui enormemente. Buongiorno ministro. Buongiorno Paolini, buongiorno. Senta, appena ho annunciato che lei sarebbe stato con noi ho avuto 30 sms sulle quote latte, ma siccome non è l'argomento di questa trasmissione, magari chissà, un giorno ci torneremo e magari faremo volentieri quando vuole qualcosa sul latte. Senta ministro, io la chiamavo per questo, stiamo discutendo un po' di questa rivoluzione che sta arrivando dalla comunità europea sul cambiamento delle denominazioni, appunto l'arrivo delle DOP e delle IGP in luogo delle DOC e delle IGT. Volevo chiederle, c'è anche una rivolta, molti produttori così sono molto tesi per l'arrivo dei controlli, ma questo arrivo dei controlli fa parte di una politica appunto di tolleranza zero sulle sofisticazioni, sulle adulterazioni? Io dico sempre che a noi fa paura la burocrazia e l'ufficio complicazioni e affari semplici, non ci fa paura essere controllati se non abbiamo nulla da nascondere. Tolleranza zero significa difesa del consumatore e del produttore. Quindi lei dice, è evidente, l'ho accennato anch'io, il consumatore in questo caso da questi controlli sarà maggiormente garantito, ma non pensa che arrivi un po' così come un fiume questo cambiamento anche sul mercato per il consumatore? Un disordine disorientamento, non vedendo più, diciamo, le sigle che trovava un tempo e ora DOP e IGP, e poi paragonarle alle sigle gastronomiche, ai prodotti gastronomici, ai formaggi e ai salumi. Io credo che prima avremmo dovuto digerire le DOP e le IGP in Europa e poi forse arrivare a questo. Ma guardi, io concordo con lei, io non avrei mai sottoscritto questo negoziato, un negoziato che ho ereditato, che ho contestato dall'assessore regionale all'agricoltura, è un negoziato che comunque va verso quello che noi stiamo difendendo in sede di WTO, ovvero la possibilità di difendere i nostri prodotti. Si figuri che noi siamo una nazione che ha 318 DOC, 38 DOCG e 116 IGT e noi non cerchiamo di confrontarci con quelle comunità che pensano che il vino sia solo bianco e rosso. Ecco, la cosa che mi lascia un po' perplesso è anche questa, che dalla nuova normativa basta che un solo produttore presenti, diciamo, domanda e richiesta, può andare avanti e può anche ottenere le DOP e le IGP. Non le sembra così un po' troppo creare caos? Magari se sono 100, 200, 300 produttori che presentano questo, intasano la burocrazia. Ma assolutamente sì, ma è come le ripeto, questo non è un negoziato che abbiamo voluto noi perché lo abbiamo ereditato dalle passate gestioni governative e ovviamente finché si mandavano i funzionari a discutere a Bruxelles e non ci andavano i ministri, questi sono i risultati. Sono i risultati di una nazione come l'Italia che produce oltre 70 milioni di ettolitri di vino e che è una nazione leader per denominazioni e dove c'è identità territoriale, c'è terroir come direbbero i francesi all'interno delle nostre bottiglie e si deve accettare, deve essere sottomessa a delle volontà che sono di paesi che poi certo. Di vino non sanno nulla, questa è la verità. Ecco, un'ultima battuta su questa guerra del Prosecco tra Piemonte e Veneto e Friuli Venezia Giulia, cosa ne pensa lei da trevigiano? Ma guardi, la partita e il dossier ce l'ho sulla mia scrivania. Io penso che le guerre non aiutino l'agricoltura in generale, come per il latte, mi perdoni di dirlo, visto considerato che si vuole andare a raccontare agli agricoltori e agli allevatori che noi facciamo i decreti di nascosto per fare sanatorie, che sono due bugie in una sola dichiarazione. Però rispetto al Prosecco penso che si debba trovare la quadra, e visto e considerato che siamo in procedura semplificata fino al 1° d'agosto e abbiamo questa opportunità, dobbiamo chiudere assolutamente questa procedura, altrimenti la riserva del nome del Prosecco non avrà mai futuro. Bene, io la ringrazio, la lascio a questa fiera, la più antica dell'agricoltura, mi dicono, Godega di Sant'Urbano, quindi buona manifestazione e a presto. Grazie a lei, buongiorno. Arrivederci. Allora sentiamo Gilbert da Pado, appunto sul Prosecco, era intervenuto e si sentiva male. Buongiorno Gilbert. Buongiorno ancora a tutti quanti. Allora, io ho sentito con piacere anche le parole del ministro Zaia, che mi ricordo quando lui era assessore regionale all'agricoltura, ho anche l'articolo, lui era ben disposto e era molto pro a queste lattine, in quanto bisogna considerare che questo è un fatto commerciale. Se si vuole difendere l'identità territoriale, io assolutamente sono d'accordo, perché basterebbe semplicemente un po' di buonsenso e al posto di scrivere Prosecco si scrive Prosecco del Valdobbiadene e tutto quello che stanno facendo va benissimo, però sminuire e mortificare un prodotto che comunque io personalmente è la mia modesta opinione, negli ultimi 2-3 anni questo lancio di questa lattina, questo Prosecco in lattina, ha promosso il nome del Prosecco nel mondo, che poi sia l'opinion leader di questa, il testimonial, sia la Paris Hilton oppure altre persone che magari non sono gradite, questo è un altro bene, discorso. Bene, abbiamo capito esattamente, distingue appunto il discorso esterno da quello interno. Sentiamo velocissimamente Adami, perché ho tanti radioascoltatori in linea, può rispondere a Gilbert? Guardi, Davide e signor Gilbert, posso commentare molto poco. Il Prosecco in lattina fa solo dei grandissimi danni di immagine, non tanto per il contenitore, ma quanto per il modo di porre e presentare un vino di grande qualità come il Prosecco in un contenitore non adatto a eccepirlo. Non so neanche se si conservi bene. Per noi è un grosso problema di immagini. Io potrei rispondere molto semplicemente, gradirei il Prosecco in lattina se anche lo champagne andasse in lattina. Bene, grazie Adami. Sentiamo Roberto da Chieti, un produttore di vino, sembra appunto, si professa tale. Buongiorno Roberto. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Sì, io sono un produttore di vino e volevo solo dire questo: i controlli ben vengano, però il discorso è questo. Io sono passato dal metanolo dagli anni 90, dall'ultimo scandalo del Vinitaly, però i controlli devono essere fatti prima del consumatore, cioè quindi al negozio. Perché? Perché quando la grande distribuzione fa gara di appalto per vendere, per acquistare vino a 45 centesimi, per acquistare bottiglie a 58 centesimi, è successo 15 giorni fa, io penso che la grande distribuzione conosca il vino che può essere là dentro e quindi al consumatore, nella scusa di dare un prezzo molto basso, darà un vino che non è di grande qualità. Quindi i controlli ben vengono, ma vengono soprattutto nella fase finale della produzione. Bene. È colpa della produzione. Grazie Roberto. Sentiamo Riccardo dalla provincia di Bari. Buongiorno Riccardo. Salve, buongiorno. Niente, io mi ricollego al discorso del produttore di vino. Bisogna coinvolgere nei controlli un attimino le catene di distribuzione e rendere responsabili del prodotto che vendono, perché loro hanno comunque la marginalizzano comunque su qualsiasi tipo di prodotto, soltanto questo. Bene, sentiamo Raimondo da Padova. Buongiorno Raimondo. L'ascoltatore di prima mi ha anticipato un po', le aziende italiane sono bravissime a fare prodotti di qualità, solo che dovrebbero cooperare per creare una rete di distribuzione, magari prendendo ad esempio quello che hanno fatto Luxottica e Benetton, che hanno puntato sulla proprietà di catene di distribuzione per far penetrare con i loro prodotti in tutto il mondo. Bene. E quindi fare quello che ha fatto tipo Piazza Italia a Pechino, che hanno fatto un centro, ho sentito, dove si trovano i prodotti italiani di qualità, e eccetera. Grazie Raimondo. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di nuove normative sul vino, nonché di Prosecco. Il Prosecco ha veramente scatenato i nostri radioascoltatori, sia con le telefonate che con gli SMS. Sono tantissimi, tutti parlano di controlli, parlano di sofisticazioni, ma molti parlano, come dicevo prima, di quota latte. Bene, sentiamo, abbiamo con noi un produttore importante come Sandro Boscaini dell'azienda Masi. Allora, caro Sandro, io vorrei chiederti cosa ne pensi di questo arrivo, di questo, diciamo, ciclone comunitario dell'OCM sul cambiamento delle denominazioni dei vini. Buongiorno Davide, intanto a te. Beh, cosa ne penso? Mi sembra che dalle richieste dei tuoi e degli interventi dei tuoi ascoltatori già si legga, si abbia il metro. Mi sembra che appunto sentano il problema Prosecco, perché è un vero problema. L'altro è un fatto strutturale, tecnico legale, sicuramente molto importante, e che ci dà una possibilità di conformarsi a una legge che, come dice il Ministro, è stata in qualche modo accettata, ma che insomma non è che ne sentissimo un grandissimo bisogno, ma anche una grande occasione per modernizzare il nostro sistema, che non c'è dubbio è diventato molto faraginoso, vecchio, impostato nel 63, quando la situazione era del tutto diversa da quella attuale, quando il vino d'eccellenza era una quantità minima rispetto al totale, quando l'export era in mano a forse 50 marchi, ma non, forse anche meno. Il mondo ora è cambiato, c'è una nuova percezione del prodotto vino, è giusto che cambi. Se questa è una opportunità, pur tecnica legale, ma ci dà questa opportunità, ben venga questa opportunità. E non credo francamente che il consumatore alla fine ne avrà certo un disagio iniziale, ma non credo che alla fine sia scombussolato da questo. Quello che tocca il consumatore è più sostanziale, e mi sembra che il discorso del Prosecco e l'interesse che c'è attorno a questo fenomeno lo dimostri. Bene, io ora in linea un altro importante produttore che è molto sensibile al discorso del Prosecco, perché tempo fa aveva anche così proposto alcune cose che riguardavano il Friuli Venezia Giulia, un paese che si chiama Prosecco, ed è Gianni Zonin. Buongiorno Zonin. Buongiorno dottore, come sta? Bene, lei cosa ne pensa di questa, diciamo, rimostranza piemontese sul discorso del Prosecco? Ma guardi, è una rimostranza che è anche comprensibile. I piemontesi hanno cavalcato il successo del Prosecco, che è un successo a livello mondiale, ed è sotto certi aspetti ha superato anche il successo del Pinot Grigio e quindi credo che dopo lo champagne il Prosecco sarà il più importante spumante nel mondo. I piemontesi l'hanno cavalcato, si sono messi a imbottigliare il Prosecco, adesso che il Prosecco sta diventando una DOC che riguarda una zona di origine che è proprio il paesino di Prosecco vicino a Trieste, loro non vogliono essere esclusi, poi spetta la politica, spetta al buon senso trovare la giusta soluzione. Sentiamo Roberto da Parma, buongiorno radioascoltatore, buongiorno Roberto. Buongiorno signor Paolini, io sono soltanto un estimatore del Prosecco e credo che però si possa tranquillamente dire che il Prosecco di Val d'Obbiadene è sicuramente diverso dagli altri prosecchi prodotti, anche quelli di Treviso, il Prosecco del Veneto, sono completamente diversi. Il Prosecco è Val d'Obbiadene, solo Val d'Obbiadene, e chiaramente anche Conegliano, San Pietro di Feletto, Seniga, cioè il Prosecco lo si sente, è un vino di Val d'Obbiadene, le altre produzioni non sono a quell'altezza. Bene, Zonin, volevo chiederle un parere anche abbastanza veloce, non è che abbiamo molto tempo comunque, su questa diciamo riforma o rivoluzione, come la chiamo io, che sta per arrivare dell'OCM per quanto riguarda le denominazioni e soprattutto per quanto riguarda i controlli. Lei pensa che possa essere efficace, possa portare così a prevenire eventuali sofisticazioni, adulterazioni o altro? Ma guardi, la riforma intanto per quello che è passato, la DOC si continuerà a chiamare la DOC, la DOCG continuerà a chiamarsi DOCG, quindi su quello che è stato fatto fino ad oggi non vedo grandi turbative. Il problema è che tutte le pratiche d'ora in poi verranno trasmesse a Bruxelles e per cui i tempi saranno lunghissimi. Penso che l'aceto balsamico di Modena sia un esempio eclatante, sono 14 anni che la pratica è a Bruxelles e non si è ancora arrivati alla fine. Allora se questi sono i tempi non posso essere ottimista e questo mi dispiace perché l'Italia ha bisogno di rinnovare alcune disposizioni sulle denominazioni di origine che partono ancora con la legge del 63 e quindi voglio dire, se non ci lasciano la velocità, purtroppo ci porteremo dietro tutte le tare che con gli anni si sono accumulate. Per quanto riguarda i controlli, io sono sempre convinto che i controlli devono essere fatti dal Ministero dell'Agricoltura, poiché abbiamo i NAS, abbiamo la Guardia di Finanza, abbiamo tante cose. E a livello delle singole denominazioni, i consorsi possono essere un valido aiuto per collaborare col Ministero perché sia protetto primo il consumatore e secondo anche il produttore. Bene, la ringrazio Zonin, grazie del suo intervento, però bisogna sottolineare che da questa nuova normativa probabilmente i consorsi, come posso dire, vengono tagliati fuori. Ma sentiamo Maurizio da Udine, buongiorno Maurizio. Ciao Davide, come tu ricorderai, noi in Friuli abbiamo costituito per primi un comitato che si chiama Vinum Loci e che difende i vini autoctoni. Perché parlo di questo? Perché dal dibattito che sento oggi in trasmissione emerge forse anche una problematica che deve poi vederci uniti verso un obiettivo. Cioè, vogliamo o no che i vitigni siano collegati al territorio di cui sono l'origine? O vogliamo invece che il vitigno possa essere coltivato in qualsiasi parte del mondo e portare questo nome indipendentemente da dove è coltivato e prodotto? Questo è il vero tema. Io credo che il vitigno deve continuare a vivere, a prodursi laddove la natura lo ha messo nelle condizioni migliori per farlo e deve esprimere la cultura di un territorio. Bene. Grazie Maurizio e grazie al lavoro che ha fatto Vinum Loci fino ad oggi. Bene, abbiamo con noi un tecnico, un enologo, professore all'Università di Milano, Leonardo Valenti. Buongiorno Valenti. Ciao, buongiorno e un saluto ai tuoi radioascoltatori. Ma io volevo farti chiedere altre cose, però hai sentito questo ultimo intervento, cosa ne pensi? Ma guarda, io sono sempre dell'idea che la difesa del territorio è importante quantomeno per le nostre viticolture, però pensare di riuscire a bloccare una situazione di comunque trasmissione di materiali, eccetera, è praticamente impossibile. Secondo me bisogna difendere il territorio e non difendere il vitigno, perché poi alla fine se quel vitigno in quel territorio dà un prodotto di eccellenza è inimitabile per conto suo, senza bisogno di dover obbligatoriamente. Si discuteva adesso del fatto che il prosecco di Valdobbiadene, zone di Cartizze, le zone di Conegliano hanno un prodotto di qualità superiore rispetto a quello che è un prodotto tipo il prosecco del Veneto piuttosto che quello di Treviso o denominazioni diciamo di più di meno precisa collocazione territoriale. Un'ultima battuta con Boscaini, ho solamente un minuto. Volevo chiederti questo: questo discorso delle DOP e dell'IGP, cioè di fare tutto un fascio dell'Europa, cosa porterà all'Italia? Dei vantaggi o degli svantaggi? Beh, io penso che dipenda da noi anche come impostiamo i vari disciplinari o come li adattiamo. Certamente la territorialità è alla base del nostro discorso, dobbiamo, e devo dire anche la regionalità, e questo vale molto per le IGP o le IGT attuali, perché è la chiave di lettura di un'Italia che ha una recente Costituzione, come sappiamo, poco più di un secolo fa, e che ha invece consolidato delle culture, non solo delle culture in senso generale, ma anche delle culture specifiche, viticole e vinicole o vitivinicole, molto caratteristiche e molto speciali. Cioè il territorio come messaggero della nostra cultura è una chiave importantissima per noi, è la chiave che riporta la nostra storia e la nostra innovazione anche. La qualità non si può fare per decreto, ovviamente, ma all'interno di un decreto ben fatto ci può essere la qualità, ci può essere la riconoscibilità territoriale di territori che sono diversi ma evocativi, sono vocati a varie produzioni della vite e del vino e sono originali. La diversità rappresenta poi ovviamente una grande unique sell proposition, e in fondo il mondo è quello che riconosce. Perché cosa riconosce? Riconosce la qualità, che vuol dire emozionalità per un vino come è inteso oggi, riconoscibilità, salubrità e pertanto sicurezza, e qui nasce tutto il discorso anche di controlli. Ma poi riconosce un rapporto prezzo-qualità e una semplicità di marketing. Bisogna anche dirci questo. Allora, quando cominciamo ad avere delle IGT, che saranno poi IGP importanti, che chiamano la Toscana, le Venezie e la Sicilia, immediatamente il consumatore è percepisce, capisce e colloca. Quando riportiamo avanti certi molti altri discorsi nostri di DOC, che sono in molti casi o saranno DOP poi. Sandro, sono... purtroppo ti devo togliere la parola, perché devo chiudere la trasmissione. Dalla regia mi fanno segno proprio che ho passato i limiti. Comunque abbiamo compreso quello che stavi dicendo, che è molto importante questo finale. Grazie a Sandro Boscaini, grazie anche a Valenti, che non posso utilizzare ulteriormente. E adesso continua il riposo del guerriero con Stefano Gallarini.